Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Eccoci giunti, cari ascoltatori, al nostro consueto appuntamento col santo curato d'Ars, la cui vita stiamo per così dire centellinando di volta in volta a dosi ridottissime, proprio per spremere fuori la maggior quantità di succo, di sostanza e di insegnamenti. Insegnamenti che dobbiamo dire possono giovare ai sacerdoti, ma senz'altro anche a tutti gli altri ascoltatori. Dobbiamo tenere presente che il curato d'Ars è un prete diocesano, perciò vive in gran parte la spiritualità del prete diocesano, ma abbiamo detto più volte che questo santo, come del resto tutti i santi, ma direi lui in modo particolare, ha da insegnare qualcosa a tutti, perciò oltre che ai preti diocesani anche ai religiosi, di vita contemplativa o di vita attiva, ma direi molto molto anche ai laici, qualunque sia il loro stato di vita, perciò la loro missione. Comunque ricorderete che abbiamo parlato per due volte della messa del curato d'Ars, una messa davvero sentita, cui si andava apposta per edificarsi, ma abbiamo anche detto, se ricordate, che il nostro santo durante la messa era a volte anche molto tentato, soprattutto tentato di disperazione circa la sua eterna salvezza. E una volta si udì distintamente che diceva: lasciatemi almeno la Santa Vergine, cioè se avrò la sventura, Signore, di perdervi per sempre, almeno lasciatemi la Santa Vergine. Beh, sappiamo che questo è teologicamente impossibile, vero? Perché una volta perso il figlio, ha perso anche la madre. Ma che volete, un santo è un santo, e per capire certe cose noi dobbiamo entrare un po' nella sua psicologia. Ecco, poi abbiamo parlato anche del suo ringraziamento dopo la messa, fatto sempre con molta diligenza e raccoglimento, malgrado i molti curiosi, e malgrado la ressa dei fedeli che attendevano di confessarsi. E il ringraziamento per lui non era altro che un immergersi nel balsamo dell'amor di Dio come l'ape tra i fiori. Sono espressioni proprio coniate da lui, nei suoi famosi catechismi. Ecco, poi se ricordate, il nostro santo si portava in sacrestia per benedire gli oggetti che portavano i pellegrini da casa, o più frequentemente le medaglie, le corone, i santini che compravano direttamente ad Ars sul posto nei vari negozi che erano sorti. E qui dobbiamo dire, carissimi, che i fedeli pellegrini pregavano il sacrestano di far mettere dal curato anche la sua firma, diciamo il suo autografo, sulle immaginette che gli consegnavano. E il nostro santo si sottoponeva volentieri a questa fatica, però evitava di mettere tutta la firma completa, che sarebbe stata troppo lunga, ma metteva solo le iniziali GMBV, Giovanni Maria Battista Vianney. E la cosa, dice il nostro biografo, cercava di farla il più velocemente possibile, e questo per vari motivi, sia perché la riteneva una cosa molto secondaria, no? Che lui faceva più che altro per assecondare i pellegrini, sia perché la attendevano subito le confessioni degli uomini, come vedremo, ormai pronti e schierati, ciascuno al suo posto. Ma poi ha premura di mettere queste firme anche perché in questo momento, oltre ai penitenti, ci sono lì ad attenderlo anche molte anime afflitte che devono sottoporgli qualche problema per un eventuale consiglio, ma specialmente per chiedere la sua preghiera. E allora il nostro santo si fa scrupolo di non farle attendere troppo queste persone, per qualche verso addolorate, e per tutti ha una parola buona e un incoraggiamento. E qui, carissimi, io vorrei fare una prima riflessione importante. Vorrei farvi notare almeno due cose. Prima di tutto che il curato d'Ars, a quanto pare, distingueva nettamente tra confessione, direzione spirituale e incontro, diciamo, consolatorio, o comunque incontro per illuminare su un certo problema. E attenti, se le prime due cose a volte venivano abbinate, no? Confessione e direzione spirituale, invece la terza era tenuta ben distinta. E credo, carissimi, che questo schema, questa distinzione di attività sacerdotali sia molto importante e vada tenuta sempre presente da parte di noi sacerdoti. Questo, attenti, sia per una ragione educativa, no? In quanto che i fedeli devono capire che un conto è la remissione dei peccati e un conto è il colloquio filiale col Padre. Ma poi direi anche proprio per una ragione pratica, è perché in effetti è molto difficile fare entrambe le cose insieme. O fai bene una o fai bene l'altra. Sì, si capisce, sono tutte piaghe da curare, però capite che sono piaghe di natura diversa, molto diversa. Altro è la piaga dell'afflizione e altro è la piaga del peccato. E ognuna di queste piaghe vuole un trattamento diverso e una cura diversa, un rimedio diverso. Quindi, pur senza irrigidirci troppo, tuttavia dobbiamo educare il nostro popolo a distinguere questi vari momenti, anche proprio per essere, diciamo, serviti meglio, no? Serviti con più calma e in modo più adeguato. Però attenti, di non esagerare, se una gerarchia va fatta, noi sacerdoti dobbiamo dare senz'altro la netta prevalenza alla parte spirituale, cioè alla guarigione dell'anima, che non alla parte consolatoria. Corrado D'Arcy dedicava pochissimo tempo a consolare gli afflitti, anche se lo sentiva pure come un importante dovere. Pochissimo tempo, cioè pochi minuti, se li confrontiamo con le molte ore passate al confessionale. Quindi direi che noi preti dobbiamo sì accogliere i sofferenti, e con gran cuore, sì, ma non dobbiamo farci rubare troppo tempo in questa missione, perché certo non è la cosa più importante, anche se fa parte indubbiamente dell'esercizio della carità. Ma non dimentichiamo, carissimi, che anche la virtù della carità ha una sua gerarchia interna. Per cui Dio mi liberi dal fare aspettare troppo un penitente che vuole confessarsi per dare troppo retta a un'anima afflitta che vuole sfogarsi. Senza dire, carissimi, che noi se stiamo lì troppo a raccogliere le lacrime nella coppa, c'è pericolo anche, secondo me, di favorire, di assecondare in un certo senso l'egoismo della gente. Ecco, se c'è una cosa che ho imparato in questi oltre 20 anni di sacerdozio è proprio questa, che la gente che frequenta la Chiesa e che batte le canoniche è tendenzialmente egoista. E l'egoismo non va assecondato, anzi va soffocato, o meglio va corretto, va deviato in altra direzione. Ecco, questa quindi può essere una prima osservazione, distinguere cioè il momento consolatorio dal momento più specifico di guarigione dell'anima e del peccato. Però, ho detto prima che non dobbiamo esagerare. Guardiamocene bene dall'accogliere chi soffre con aria di sufficienza, vero? In modo indifferente o limitandoci a commiserare, o peggio trattandolo male, con nervosismo e impazienza. E teniamo presente che noi siamo i rappresentanti di Cristo, siamo i suoi ministri. Quindi dobbiamo in tutto immedesimarci nella parte. Dobbiamo cioè entrare nella mente, nel cuore di Cristo per poterlo imitare il più possibile. Teniamo presente che il nostro modo di comportarci non è qualcosa che lascia il tempo che trova, ma influisce molto sulle anime, sulla persona che abbiamo davanti, influisce in bene ma anche in male, Per cui facilmente una mossa falsa da parte nostra non sarà solo avvertita con disagio da chi ci sta di fronte, ma determinerà anche una crescita o un calo anche netto della sua fede, del suo attaccamento a Gesù, alla Chiesa. Capite? Quindi il sacerdote ha delle gravi responsabilità e deve perciò sempre controllarsi e dare di sé un'immagine di sostanziale mitezza. Se qualche volta è anche giusto arrabbiarsi, nel senso migliore del termine, come Gesù, non so, quando scacciò i venditori dal Tempio, vero? Tuttavia la nota dominante del prete, secondo me, deve essere la bontà, la pazienza, la mitezza, la tolleranza, ecco. Imparati da me che sono mite e umile di cuore. E oltretutto dice troverete ristoro per le vostre anime, quindi ad essere miti e umile non si sbaglia mai. E ci si guadagna sempre. Quindi distinguere i vari momenti, le varie mansioni del prete, ma comunque non usare mai la durezza con nessuno. E penso che qui dobbiamo tutti chiedere al Signore, carissimi, molto equilibrio nella nostra vita sacerdotale, Cioè saper dare a ogni cosa, a ogni mansione, il tempo giusto, lo spazio giusto, né troppo poco. E se da una parte dobbiamo accogliere a braccia aperte, dall'altra parte dobbiamo anche in certi momenti saper dire di no, o comunque saper troncare un discorso che magari è scivolato nel pettegolezzo o dove magari si è scoperto un fine egoistico, eccetera. Certo che, ripeto, non è facile questo equilibrio, sono primo ad ammetterlo, avendone io molto poco, ma penso che con l'aiuto indispensabile della preghiera riusciremo, se non altro, a migliorare. Beh, comunque, adesso, carissimi, dobbiamo continuare la nostra analisi su come si svolgeva la giornata del curato d'Asso. E dobbiamo dire che a questo punto, e siamo attorno alle 8 del mattino, a questo punto il nostro santo, tanto per cambiare, entrava in confessionale e vi rimaneva per circa 2 ore, cioè fino alle 10 circa. Però dobbiamo dire, carissimi, anche in tono un po' scherzoso, che prima di tutto era un confessionale diverso, e precisamente il confessionale degli uomini che c'era in sacrestia. Quindi per il nostro santo costituiva una specie di evasione, di diversivo. Tanto più che abbiamo già detto che il curato d'Ars aveva nel suo ministero pastorale un'inclinazione spiccata per gli uomini, e sembra che avesse un carisma particolare per convertirli, e quindi ci sapeva fare. E penso che se la confessione delle donne poteva rappresentare per lui un peso notevole, la confessione notturna, che era finita alle 7, dalla 1 di notte, invece la confessione degli uomini doveva essere piuttosto un sollievo, un relax. Comunque dobbiamo anche dire che prima di accedere alla sacrestia per confessare agli uomini, il curato si concedeva altri 2 piccoli relax. Prima di tutto beveva un po' di latte caldo, e questo più che altro per ubbidienza, e ubbidienza al vescovo, ubbidienza al medico. Comunque era sempre poca cosa e soprattutto poca perdita di tempo, si trattava di un paio di minuti al massimo. Inoltre, secondo, il curato si sgranchiva un po' le gambe andando anche solo per un attimo alla Providence, alla cosiddetta Providenza, che era una specie di scuola convitto femminile da lui stesso fondato, dove il curato scambiava qualche battuta con le responsabili circa i problemi della casa e si beava nel veder giocare le piccole ospiti prima della scuola. Ma comunque anche questo, come ripeto, questo momento di relativo relax durava pochissimo, in 5 minuti, e il nostro santo era subito di ritorno. Allora adesso vediamo, carissimi, un altro argomento molto importante circa la sua giornata, ed è un argomento proprio spiccatamente sacerdotale, vale a dire il breviario. Verso le 10 il nostro eroe, in genere, aveva già sbrigato la lunga fila di uomini per cui poteva dedicarsi per un po' all'ufficio divino, quello che oggi chiamiamo meglio liturgia delle ore. Per cui se sopraggiungeva qualche altro penitente e lo faceva inginocchiare per un po', pregandolo di continuare la sua preparazione, mentre lui, scrive il biografo, si poneva sui gradini della sacrestia per cominciare la sua preghiera. Ecco, diciamo subito, carissimi, che la recita dell'ufficio divino era da lui considerata come il vero e il migliore relax, il miglior riposo. E diceva spesso: com'è bello potersi riposare un poco così. E qui dobbiamo dire, carissimi, anche una cosa molto interessante, che forse non vi aspettavate. E cioè il curato non aveva del latino una conoscenza perfetta, e il breviario era in latino. E conosciamo benissimo le sue difficoltà negli studi, vero? Ecco, però a quanto pare una grazia speciale di Dio, dello Spirito Santo, gli svelava il senso profondo dei salmi. E diceva confidenzialmente: quando penso a queste belle preghiere, sono tentato di dire felix culpa. Perché dice: se Davide non avesse dovuto piangere i suoi peccati, noi non le avremmo. Forse qui alludeva soprattutto al miserere, no? Salmo 50. Ecco, però dobbiamo dire che il suo non era solo amore ai salmi, ma era proprio amore al breviario, diciamo amore al libro che contiene i salmi. E sembra che il nostro eroe non si separasse mai da questo libro, lo voleva sempre con sé, e lo teneva quasi continuamente sotto il braccio, e quando un giorno un sacerdote gliene chiese il motivo, la ragione, lui rispose: «Il breviario è il mio fedele compagno. Io non saprei andare in nessun luogo senza di lui». Ecco, potessimo tutti dire la stessa cosa, carissimi. E penso in questo momento, non so, per esempio, a un San Francesco Saverio che parte per le Indie con queste due sole ricchezze, il rosario e il breviario. Penso anche, non so, a quei sacerdoti tipo Massimiliano Kolbe che in quei luoghi di pena possedevano quest'unico tesoro, che era per loro come la più preziosa reliquia, che teneva vivo in loro il ricordo del loro carisma sacerdotale ed era quindi un forte segno di speranza. E così anche tutti quei sacerdoti che in un modo o nell'altro hanno dovuto sospendere il loro ministero sacerdotale a causa della persecuzione religiosa, che però hanno sempre tenuto in grande onore questo libro, magari nascondendolo scrupolosamente per non rischiare la sua distruzione, che poteva anche corrispondere al loro arresto. Ecco, io mi auguro che i sacerdoti abbiano sempre più ad amare il breviario, ad amarlo come la seconda cosa più importante del loro sacerdozio, dopo la messa. E penso che oggi, carissimi, sono stati fatti molti passi avanti rispetto al tempo del curato d'Ars. Oggi, dopo il concilio, il breviario è veramente un libro amabile, a parte la lingua italiana che ci rende tutto più comprensibile, ma poi dobbiamo dire inoltre che è stato di molto arricchito, come sapete, e trasformato, anzi totalmente trasformato, rinnovato. Pensate per esempio alla trovata geniale delle 4 settimane del Salterio, che praticamente ci fanno abbracciare un po' tutto il Salterio. Pensate per esempio alla ricchezza di letture bibliche, all'abbondante nutrimento biblico che si integra molto bene, direi, con quanto già leggiamo e meditiamo nella messa, nelle messe feriali festive. O pensate anche a questa meravigliosa novità che sono le letture patristiche inserite nel breviario. Siamo una vera miniera di idee, miniera di spunti, sia per la meditazione ma anche molto, secondo me, per la predicazione. Poi pensiamo infine anche alla possibilità di adottare l'ufficio divino come preghiera comunitaria, no? Come preghiera ufficiale della comunità. Quindi la possibilità di avere, secondo me, una vera scuola di preghiera per il nostro buon popolo, E scuola di preghiera molto sostanziosa e sistematica. Scuola di preghiera già bella e pronta, basterà al sacerdote animarla, farla vivere, farla gustare. Ecco, quindi direi, cerchiamo di valorizzare al massimo questo prezioso libro che la Chiesa ci dà in mano, cerchiamo di amarlo e cerchiamo di capirlo, cioè di approfondirlo sempre di più. Perché io penso che in esso siano celati dei tesori inesauribili, proprio come dice il libro del Siracide, no? Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e quanti bevono di me avranno ancora sete, Siracide 24:20. Ecco, è proprio così. Chi impara a gustare il suo breviario diventa molto vorace, diventa molto avido di abbeverarsi sempre più abbondantemente, direi anche sempre più criticamente, cioè cercando di capire fino in fondo quanto legge e quanto recita nella preghiera. Il breviario è proprio una fontana, che più ne bevi e più ne berresti. Allora, carissimi, adesso dobbiamo concludere, ormai vicino alla mezzanotte, concludiamo ascoltando ora questo breve scritto che ci descrive appunto il nostro santo nell'atto di recitare il breviario. Sono parole sincere che escono dalla mente e dalla penna di un avvocato di Lione, il quale forse ebbe modo di osservarlo più volte e ne riportò sempre un'impressione vivissima e profondissima. Sentiamo cosa dice questo avvocato. Dice: l'espressione della sua fisionomia rifletteva i grandi sentimenti della sua anima. La sua bocca sembrava assaporare ciò che la sua anima aveva gustato. I suoi occhi erano illuminati e raggianti. Si sarebbe detto che egli respirava un'aria più pura di quella della terra e che, fattosi insensibile alle cose del mondo, non intendesse altra parola che quella dello Spirito Santo. Ecco, volesse il cielo che le stesse parole potessero dirsi di ognuno di noi sacerdoti. La bocca che assapora quasi fisicamente ciò che l'anima ha gustato, gli occhi raggianti di luce e un'espressione che quasi fa pensare al rapimento. E non dimentichiamo infine che dal suo atteggiamento era bandita ogni distrazione. Non c'era nulla che fosse capace di distrarlo, di distoglierlo da questa sua applicazione viva alla parola di Dio. E a questo proposito, carissimi, va ricordata anche una sua celebre espressione. Diceva spesso: le mosche non cadono nell'acqua bollente, ma solo nell'acqua fredda e o tiepida. Ossia, le distrazioni in genere non colpiscono quelli che amano tanto il breviario e ne fanno il loro pascolo quotidiano, ma piuttosto colpiscono i freddi, tiepidi, quelli che non amano o amano troppo poco questo prezioso libro. Ecco, più lo ami e più lo gusti, e più ti concentri e più ti sai concentrare e più sai anche trasmettere questo amore. Quindi preghiamo davvero il Divin Salvatore e la sua Vergine Madre di innamorarci sempre di più di questo bellissimo ministero, pensando, carissimi, vero, oltretutto, che non è solo preghiera personale, ma è proprio preghiera liturgica, dove noi ancora una volta operiamo in persona Cristi, come nella Messa, e dove siamo quindi anche ministri della Chiesa che pregano ufficialmente a nome di tutti, a nome di tutti gli altri membri della Chiesa. Ma comunque non pensiamolo solo come un ufficio, come un dovere, ma facciamo in modo che sia un ufficio vivo, gustato e desiderato. Ho già avuto occasione di dire che la vita dei santi contiene in sé un fascino irresistibile che secondo me non teme alcuna concorrenza, un fascino che senz'altro non ha riscontri in altri campi dell'umano. E l'uomo, se si immedesima un attimo in queste cose, se ne innamora così tanto che tutte le altre cose al loro confronto impallidiscono, sbiadiscono e perdono completamente il fascino e l'interesse. E io sono sicuro, carissimi, che ho il chiaro presentimento che l'umanità stia riscoprendo in pieno questi valori, queste realtà spirituali. E credo che chi ha impegnato tutta la sua vita per trasmettere questi valori, anche se fosse fino a battuto la strada di poco successo e di poca soddisfazione, io credo che d'ora in poi il suo lavoro, la sua fatica sarà pienamente riconosciuta. Mentre invece chi ha creduto di far successo dando in pasto agli uomini e promuovendo a tutti i livelli i valori del mondo, io penso che presto o tardi rimarrà assai confuso. La sua gloria apparente e contingente si muterà in profonda e cocente umiliazione. Sarà svergognato davanti a tutti, perché cercava in effetti non la gloria di Dio, ma bensì la propria gloria personale. Quindi, ripeto, la vita dei santi ha un fascino irresistibile che attira gli uomini. È inutile insistere, gli uomini non sono stati creati per le sciocchezze del mondo. Non sono stati creati per le sciocchezze che ci propone il mondo, ma sono stati creati per Dio, per il Signore. E perciò, anche se gli uomini purtroppo sono facili alla distrazione, tuttavia le cose di Dio hanno sempre, esercitano sempre presso di loro una forza di attrattiva davvero incredibile, irresistibile. Certo che, attenti, dobbiamo dire, carissimi, che c'è modo e modo di presentare Dio agli uomini, vero? E c'è modo e modo di presentare la vita dei santi. E se esiste un modo autentico e secondo verità, che non può se non fare del bene e nutrire le anime, però sappiamo che esiste anche un modo sbagliato di presentare Dio e il suo mondo, e di presentare le vite dei santi. Un modo sbagliato che tende magari a calcare troppo la penna su certi aspetti a scapito di altri, credendo magari di fare più colpo, mentre invece questo modo sbagliato indispone la gente e la riempie magari di timore più che di amore. e perciò anziché attirare la gente verso Gesù, in effetti la respinge. Come quando noi, per esempio, del caso classico, insistiamo troppo sulla giustizia di Dio a scapito della sua misericordia. O viceversa, insistiamo troppo sulla sua misericordia a scapito della sua giustizia. O quando noi, per esempio, nel presentare la vita dei santi, esageriamo troppo sulle virtù di un santo, senza mettere un pochino in luce anche i suoi difetti, che ce lo rendono più simile e perciò più accettabile, più imitabile. O quando noi, per esempio, insistiamo troppo sull'elemento miracolistico, no? E non parliamo mai, ad esempio, dei momenti di aridità e di desolazione che passavano i santi, quasi che la loro vita fosse stata tutta una marcia trionfale, senza che fosse mai presente l'ombra della croce. Quindi, ripeto, c'è modo e modo di presentare i santi, come c'è modo e modo di presentare Dio. E chi vuole essere vero evangelizzatore deve chiedere anzitutto al Signore il dono della saggezza e della prudenza. Primo della saggezza, che lo porti a considerare, ad abbracciare tutti gli aspetti della realtà rivelata. Non solo i più immediati, i più accessibili, diciamo pure i più comodi da accettare, ma anche i più scomodi, i meno facili, i meno immediati, i meno accessibili. Proprio per avere ben chiare nella sua mente, nel suo cuore, la complessità e perciò la completezza della realtà rivelata, che non si compone di un solo elemento, di un solo aspetto, ma di molti aspetti, di molti elementi, e che perciò può essere considerata anche da molti punti di vista, che non si escludono a vicenda, ma semmai che si completano a vicenda. Ecco, quindi è richiesto all'evangelizzatore anzitutto uno sforzo di sintesi, che certo non è possibile fare senza l'aiuto dello Spirito Santo, anzi senza la guida e la direzione dello Spirito Santo. E poi, carissimi, secondo passo, secondo momento, bisogna tradurre questa complessità di Dio e della vita di fede, bisogna tradurre queste cose nel contesto concreto in cui devi agire, in cui devi operare. E qui, come potete ben immaginare, è quanto mai necessaria la virtù della prudenza. E questa virtù è data prima di tutto dallo Spirito alla Chiesa, vero? Alla sua Chiesa. La Chiesa in quanto tale è assistita dallo Spirito Santo non solo nell'apprendimento della verità tutta intera, come dice Gesù, ma anche nel modo concreto di presentare la verità, in base ai tempi e ai luoghi concreti in cui essa deve agire. Per esempio, non so, in un mondo facilone come il nostro, dove si è eclissato quasi del tutto il senso del peccato, è logico che la Chiesa non può presentare Dio solo come il Padre buono, che perdona sempre e che passa sopra tutto, no? Ma deve mettere in risalto anche, per esempio, la giustizia di Dio. Deve far capire che Dio un giorno ha stabilito di giudicarci, di giudicare i singoli, ma anche di giudicare la storia. Quindi la vita è una cosa molto seria, che va vissuta con impegno, come una responsabilità, come un dono ricevuto che dobbiamo impiegare, che dobbiamo far fruttare. Certo che, attenti, se questo aspetto, che Dio è anche giudice, e giudice molto severo ed esigente, se questo aspetto io devo rimetterlo in giusta luce come ritengo mio dovere, attenti, io invece dovrò guardar bene bene dal farlo con persone, per esempio, scrupolose, che hanno già vivissimo il senso del peccato e che, sentendosi ripetere queste cose, potrebbero anche sentirsi tentate di disperazione. In questo caso, allora, io farò molto bene a insistere non sulla giustizia, ma bensì appunto sulla bontà di Dio, sulla sua misericordia, sulla sua, diciamo, longanimità, Così quest'anima, rassicurata dalle mie parole, riacquisterà il suo equilibrio e la sua pace. Ecco, capite quindi che non si tratta di tagliare o di mutilare la realtà, la verità, ma si tratta solo di presentarla in modo adatto, acconcio e fruttuoso alla persona o alle persone cui io concretamente sono mandato. E questo, ripeto, è compito della prudenza. Quindi attenti, nel nostro ministero non basta la saggezza che ti apre la mente alla verità tutta intera, ma poi è indispensabile anche la prudenza, e se non hai la prudenza potrai essere un ottimo credente e anche magari un ottimo teologo, ma sarai certo un pessimo evangelizzatore e un pessimo pastore. Un pessimo evangelizzatore che o non sa toccare le corde giuste nei suoi uditori, dando del messaggio cristiano una visione non abbastanza viva e aderente alla loro situazione concreta, o che addirittura suscita scandalo nei suoi uditori, allontanandoli, respingendoli da Gesù, anziché attirarli e avvicinarli. Col calcare troppo la tinta su elementi della verità rivelata, che non è bene per ora mettere troppo in luce, ma occorre aspettare in un secondo tempo. Capite quindi, carissimi, che evangelizzare è una cosa molto difficile e occorre non soltanto prepararsi e applicarsi con impegno, ma occorre poi anche un continuo sforzo di adattamento alla situazione concreta in cui vivono i destinatari del messaggio. E tutto ciò, come ripeto, non è affatto possibile se non ci mettiamo di mezzo lo Spirito Santo, eh? Sappiamo che chi evangelizza dovrebbe essere già ripieno di Spirito Santo, sì, perché quest'opera va compiuta, andrebbe compiuta il più possibile in grazia di Dio, vero? E se l'evangelizzatore avesse la disgrazia di cadere in peccato, cedendo occasionalmente allo stilicidio, cui il demonio lo sottopone, ecco, allora dovrebbe subito rialzarsi, con un bel atto di dolore anzitutto, e Signore, che bestia che sono stato, perdonami. E poi al più presto anche con una buona confessione. Ecco, ma poi, carissimi, non basta essere in grazia di Dio per compiere bene quest'opera, ma bisogna continuamente invocare lo Spirito perché ci guidi, perché ci orienti sempre nel senso giusto, nella direzione giusta, in modo che la nostra opera sia veramente efficace e faccia veramente breccia nel cuore degli ascoltatori. Perché dobbiamo convincerci, carissimi, che l'evangelizzazione non è opera umana, ma è opera divina. È opera che la Chiesa compie nello Spirito. L'evangelizzazione è opera di Cristo, prima che della Chiesa. Quel Cristo che ha attribuito a sé, come sapete, le celebri parole del profeta Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ecco, Isaia 61:1 e seguente, citato nel Vangelo di Luca 4:18 e seguente. Comunque adesso, carissimi, noi vogliamo tornare al curato d'Ars per dedicarci a un tema quanto mai interessante e affascinante che continueremo nelle prossime volte. Un tema certo molto in relazione con quanto abbiamo già detto finora. Dovete sapere che il curato d'Ars, con tutte le fatiche a cui si sottoponeva, seduto in quel confessionale, che era veramente il suo martirio, e con tutte le penitenze e i digiuni che faceva, tuttavia, rimase sempre fedele a un impegno quotidiano, che esercitò verso i pellegrini ogni giorno per circa 20 anni, cioè fino alla morte. E si tratta precisamente del famoso catechismo delle 11. Ogni giorno, per 20 anni circa, il curato d'Ars alle 11 precise usciva dal confessionale e si dirigeva verso la cattedra, la cosiddetta cattedra dei catechismi, che era un piccolo pulpito basso con una sedia di legno, con spalliera e predella. E di lì impartiva alla gente una colorita e gustosissima istruzione religiosa della durata di circa un'ora. Beh, ovviamente, carissimi, oppresso com'era da tanti impegni, non è che potesse molto prepararsi a questa istruzione, però anzi, testimoni ci dicono che a quei tempi, cioè negli ultimi 20 anni della sua vita, non poteva più neanche preparare il Vangelo della Domenica, vero? L'omelia della Domenica. Come invece ricorderete, aveva sempre fatto in precedenza e con grande fatica. Ma comunque sappiamo che il curato d'Ars, visto come stavano mettendosi le cose, aveva fatto una bella novena allo Spirito Santo per ottenere la grazia di poter parlare senza studio. E sappiamo anche che finita questa novena gli bastò salire il pulpito e lasciare libero sfogo all'ispirazione. E qui, carissimi attenti, io mi fermerei su almeno due cose. Prima di tutto, su questo fatto della preparazione alle omelie e ai catechismi. Ma poi specialmente, come vedremo la prossima volta, sul fatto della fedeltà a questo impegno di evangelizzare e di catechizzare. Riguardo alla preparazione direi così. Non tutti gli evangelizzatori hanno ricevuto gli stessi doni, vero, e le stesse grazie. Ci può essere chi ha tanta lingua e tanta memoria, per cui gli occorre pochissima preparazione, almeno dal punto di vista materiale. E c'è chi invece ha poca lingua e poca memoria, per cui deve sudare sui libri per molte, molte ore. Ecco, quindi non bisogna generalizzare. Però attenti, vorrei dire una parola agli uni e agli altri. Primo, a chi ha molta lingua e molta memoria, vorrei dire così: sii umile, non montarti la testa se ti viene facile parlare e se vedi che tutti pendono dal tuo labbro. Sii umile e abbi sempre un santo timore di sbagliare e di inculcare negli ascoltatori orientamenti non giusti e non belli. E se non hai bisogno di stare tanto sui libri, tuttavia non sentirti troppo sicuro di te. Via vedere se questa tua facilità è proprio un dono di Dio o non è per caso faciloneria. O non è odiosa presunzione. Ma comunque a scanso equivoci, se non hai bisogno di passare troppo tempo sui libri, in ogni caso, passa molto tempo in ginocchio davanti al tabernacolo o davanti all'immagine della Madonna. Ecco, è lì che attingerai la vera sapienza. Non tanto nelle tue capacità reali o presunte, ma piuttosto nella grazia di Dio, nei lumi dello Spirito. Sappi che se basi tutto sulle tue capacità farai certamente un buco nell'acqua. Cioè, invece di un pesce, prenderai un granchio, che farà danno a te e agli altri. Ecco, mentre invece attenti a chi deve molto sudare sui libri, dico così: fortunato te, se il Signore ha disposto che il tuo ministero fosse tanto faticoso. Fortunato te. Prima di tutto per l'onore che il Signore ti fa di servirlo con così tanto impegno e così tanta fatica, e quindi con una prevedibile ma anche inimmaginabile e meravigliosa ricompensa. Secondo, non credere che chi deve molto faticare otterrà dei risultati più scadenti di chi non ha fatto nessuna fatica. Questo è falso, anzi, di solito succede proprio il contrario, di solito succede che l'umile faticatore, col suo impegno, con la sua costanza, ben presto arriva a superare il meglio dotato. Perché? Semplicemente perché il meglio dotato non si esercita, ritenendosi già superiore, e così le sue doti non si sviluppano mai, ma si fossilizzano, quando non regrediscono. Mentre invece il meno dotato è, per via di questo esercizio continuo a cui si deve sottoporre, finisce per sviluppare così tanto le sue doti da superare di gran lunga il meglio dotato. Quindi attenti, oltre a far cosa gradita al Signore e assai meritoria, ottiene anche alla fine dei risultati pratici più brillanti dell'altro. Senza dire infine, carissimi, che di solito l'umile faticatore fa anche più breccia sulle anime, E qui voglio esporvi una mia teoria che lascio alla vostra libera interpretazione. A me dà l'impressione che la gente, diciamo, che gli evangelizzati, cioè i destinatari del Vangelo, non si fermano mai solo alla superficie, ma sanno cogliere le motivazioni profonde del tuo dire. Cioè la gente che hai davanti non si convince delle tue parole solo per la forza delle parole, no. Ma tiene conto anche molto, molto di chi pronuncia queste parole, E se chi pronuncia queste parole, che dovrebbe essere parole di vita, è un uomo, per esempio, ambizioso, o pieno di sé, o presuntuoso, ecco, la gente lo avverte subito. E quindi dà al tuo discorso un peso assai relativo. Anche se tu, poniamo, stai dicendo le cose più sacrosante, più teologicamente esatte. Ma la gente in questo momento non è tanto interessata al tuo discorso, ma piuttosto a chi porge il discorso, che non trova, che non giudica abbastanza sincero e quindi abbastanza fedele a queste parole che sta predicando, che non trova abbastanza credibile. Mentre invece se uno, poniamo, si presenta come una persona impacciata e magari anche un po' pasticciona, e se quanto dice lo dice in un modo poco vivace, ma la gente avverte in lui una persona veramente sincera che agisce col cuore, è proprio col solo desiderio di servire il Signore e di aiutare il prossimo, allora sappiate che la gente e gli uditori in questo momento prescindono dai lati negativi, passano sopra gli handicap del predicatore, ma sanno cogliere molto bene la sincerità del suo discorso, per cui gli prestano molta, molta attenzione. E il suo discorso scende nel cuore e lo conquista e lo converte. Quindi alla fin fine, carissimi, non è detto che il superdotato è quello che riesce meglio. Riesce meglio solo se è umile, se è sincero, altrimenti no. Ma comunque dobbiamo dire che alla fin fine ciò che conta è la grazia di Dio, più che la bravura o la santità del predicatore. Il predicatore, il catechista, deve sempre possibilmente prepararsi con impegno fin dove è possibile. Sì, ma deve soprattutto affidarsi alla grazia di Dio, Don Bosco diceva che l'educazione è più che altro affare del cuore, faccenda del cuore. Ecco, io penso che la stessa cosa, vero, potremmo dirla benissimo, dell'evangelizzazione, della catechesi. In definitiva si tratta di mettere a contatto due cuori, il cuore dell'uomo e il cuore di Dio, il cuore di Cristo. Per cui capite che chi sta in mezzo e deve compiere questa operazione deve scomparire il più possibile. Più l'evangelizzatore è pieno di sé e più ostacola questo contatto tra i due cuori. Più invece è umile e cerca di scomparire e più agevole il contatto. Preghiamo allora, carissimi, di essere rivestiti di molta umiltà e di molta carità. Ecco, sia solo l'amore a farci agire. Però non l'amore a noi stessi, ma piuttosto l'amore a Dio e ai fratelli. Allora questo amore, che poi non è altro se non lo Spirito Santo, darà alla nostra opera l'orientamento giusto e perciò anche un esito felice. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.